design italiano, devo dire, in qualche maniera risente dei problemi del paese, perché ovviamente è espressione di una cultura sociale diffusa, eccetera. Diciamo, tra l'altro, poi vive in un momento caratterizzato dalla globalizzazione, quindi la sua diversità, il suo essere eccezione, in qualche maniera si è un po' diluito, anche se il modello di funzionamento italiano si è diffuso nel mondo. Diciamo che semmai è cambiato, mi sembra, il ruolo in generale del design oggi, nel XXI secolo, cioè di un design che non è più soltanto una professione di elite, ma è diventata in tutto il mondo un'attività dove agiscono un numero enorme di progettisti, direi quasi positivamente una professione di massa che fornisce a tutto il sistema industriale, non solo al settore dell'arredamento, quel tipo di energia di innovazione che permette di affrontare la concorrenza mondiale, che oggi in qualsiasi settore produttivo è diventata un problema enorme. Quindi il design ha acquistato un ruolo strategico a livello mondiale, che è la vera novità del XXI secolo, ed è diventata una professione dove ci sono un'infinità di grandi progettisti e di creativi.